Bene, buonasera. Abbiamo ancora. Bene, buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera. Da parte dell'amministrazione comunale di Uggiate Trevano e un ringraziamento alla cooperativa di Uggiate Trevano che gentilmente ci concede la sala della Meridiana. Questa sera all'interno del programma di Oltre lo Sguardo Incontri, la serata intitolata Porte Aperte vede come protagonista Gherardo Colombo. Penso che non ci sia bisogno di presentazioni, quindi lascerò adesso direttamente la parola a dottor Colombo e quindi poi eventualmente successivamente ci sarà una parte di dibattito con le domande e potete interrompere direttamente con Gerardo Colombo. Grazie mille. Mettiamoci, se no magari sì. Però ci mettiamo un pezzettino di. Un elastico. Qualcuno direbbe che è il bello della diretta. Sì, non c'è manetta, fa niente, tanto se sale. Ma poi io non credo neanche che sia necessario il microfono, cosa dite? Va giù, beh, lei lo so. Io chiedevo a loro laggiù in fondo, ci sentite? Secondo me è sempre un problema, io non ho mai capito come fanno a rispondere no, perché ci sentite e mi rispondono. Vuol dire che ci sentite, se no uno dice cosa ha detto? Allora prendo il microfono, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Ecco, prendo il microfono. Buonasera. Buonasera. Come state? State bene? Sì. Un po' stretti magari. Cioè quelli in piedi stanno peggio di quelli seduti, generalmente. Perché è importante, no? Com'è? Perché è importante, altrimenti non saremmo in tanti. Speriamo che vada bene, non si sa mai. Anche perché l'argomento è un argomento delicato, è porte aperte. Porte aperte, come mai si chiama porte aperte? Lo sapete voi? No, nessuno lo sa, cioè vi siete fidati. Siete venuti a sentire, a parlare di un argomento che non è un argomento. Parleremo di quello che c'è scritto proprio nel libro che non c'è questa sera. L'unico che non sono riuscito a comprare. Perché è l'ultimo, magari qualcuno ce l'ha, non lo so. Lei ce l'ha, lei ci salva, cioè così può controllare se dico delle cose che mi ricordo male. No, è quello lì, è il penultimo. E niente, va bene, lei lo sta leggendo, lo lega, che anche quello lì va bene. Però porte aperte, il tema di cui parliamo quest'oggi è il tema della conseguenza della violazione, della trasgressione. È un tema difficilissimo. Perché è un tema difficilissimo? È un tema difficilissimo perché coinvolge molto, moltissimo la pancia oltre la testa. Quindi io mi aspetto sicuramente da voi una serie di reazioni che saranno spesso molto negative rispetto a quello che dico. Lo so già, perché tutte le volte succede così. Sono stato, l'altro ieri mattina, da Augias, la signora mi ha visto e ha visto che anche Augias era un po' lì sulle spine, no? Quando si parlava di questa roba qua, perché. E d'altra parte alle spalle abbiamo una tradizione incredibilmente continua di un segno assolutamente preciso. E quindi è difficile. È difficile nel senso che è necessario riuscire a spogliarsi un pochino di quelle di quell'aspetto emozionale, no? Che ci fa reagire immediatamente per riuscire a parlare ragionando con ragionevolezza di un tema che invece la nostra irrazionalità se la trascina dietro proprio a mani basse. Qual è il tema? Il tema è quello di che cosa... Buonasera. Ci credo, ma anche voi che siete lì, fin dove arrivate? Fino a Bizzarone? Ma sì, io con io su queste... Ah, perché, cioè, non soltanto io, c'è anche altra gente che sono tutti frontalieri che vanno avanti e indietro. Adesso quelli che hanno ripreso ad andare a benzina in Svizzera, ci sarà la coda, credo. Sì, conosco abbastanza bene anche queste zone. Allora, cominciamo. Anche perché la seconda avvertenza è che è il terzo incontro che faccio quest'oggi. Io stamattina ero a Bergamo in un istituto, in un liceo artistico. Poi nel pomeriggio ero a Seregno in una scuola media e adesso sono con voi. Sono un po' stanco. Se per caso mi succede di perdere il filo, mi raccomando, ricollegatemelo voi, che siete magari più freschi di me. E essendo stanco, io vorrei anche andare via un'ora decente. È un problema ulteriore quello, perché le discussioni sulla questione di che cosa si fa, di che cosa deve succedere quando una persona viola una regola, è una questione che, appunto, siccome coinvolge moltissimo il nostro sentire oltre che il nostro pensare, generalmente non finisce mai di suscitare dibattito, di suscitare confronto, di suscitare risposte, di suscitare domande e via dicendo. Allora, io direi, partiamo un po' dalla tradizione. Cosa succede? Cosa bisogna fare? Ve lo domando, che così. Tradizionalmente, cosa si è fatto delle persone che hanno trasgredito a regole di un certo rilievo? Cos'è che succede tradizionalmente? Ecco, brava, lei è una signora molto più... era in difficoltà, lui già su questa cosa. Non era d'accordo, ma perché mi sembra che sia molto difficile non essere d'accordo. Così come succedeva, ha detto la signora, si mettono in galera. È difficile essere d'accordo su qualche cosa di diverso, così come succedeva un pochino prima di Cesare Beccaria. Quando è arrivato Cesare Beccaria, tutti d'accordo nel guardar male la pena di morte, tutti d'accordo per abolire la tortura come pena, no? Però eravamo già nel 1764 quando è uscito il suo libro. Nel 600 non era mica così. Nel 600, se Beccaria avesse scritto il suo libro allora, invece di abolire la tortura, avrebbero sicuramente abolito Beccaria. Sì. Perché per le persone era fuori dal mondo, era fuori dalla grazia di Dio pensare di abolire la tortura. Questo ve lo dico perché proviamo noi a guardare noi stessi oggi avendo la sensibilità di aver visto un cambiamento così, così forte, così epocale. Fino al 700, fino alla fine del 700, per tutto il tempo precedente la gente che commetteva dei reati veniva torturata. E veniva torturata mica male, eh? C'è un libro che è un libro fondamentale su questo tema, che ha scritto Michel Foucault, che comincia, si chiama Sorvegliare e Punire, che comincia riportando un giornale olandese, la cronaca di una esecuzione di una persona nel 700. E chi la legge si impressiona. Mi impressiono, impressionato anch'io, che bene o male di queste cose mi interesso. Perché era veramente era qualche cosa di inconcepibile nei nostri giorni. Eppure tutti erano convinti nel 600 che fosse giusto così. C'è stato un gesuita tedesco che si chiamava Friedrich von Spee. Il 600 era anche il secolo del processo alle streghe, no? Ne facevano, cioè ne bruciavano in grandissima quantità. Per fortuna che è cambiato l'andazzo, perché sennò chissà non sareste mica qui tutte. Eh sì, perché anche il sistema era un sistema per cui venivano pagati a cotti gli investigatori. E lì sapete come si è tra vicini, no? Qualcuno di voi avrà qualche maschio, magari ha detto della sua vicina di casa parlando con la moglie, ma è una strega, succede. E allora si cominciava a mettere in piedi un'indagine, un'investigazione. E come si faceva l'investigazione? Torturando le persone. Beh, allora era considerato da tutti giusto così. C'erano degli interessi forti dietro. Beh, c'erano anche degli interessi forti, ma comunque la condizione era quella. Chissà se anche oggi ci sono. Il popolo era meno colto, ma io vorrei. Non posso togliermi il golfo sotto la camicia. Sì, perché fa caldo, siamo in tanti, e come succedeva una volta, ci si scaldava come qui. A me viene in mente la stessa cosa, anche se noi siamo delle persone e non delle mucche o dei vitelli. Scusate. Lei proprio è ostinato. Se una cosa non va bene deve essere messa a posto per forza. Qui ormai io qua dietro. Allora noi non facciamo nessuna fatica a dire, come dice la signora, che allora erano un po' poco evoluti. Quasi tutti non sapevano scrivere, non sapevano leggere, che erano un po' istigati, diceva, e così via. Beh, in dubbio è vero anche quello, ma io vorrei portare la vostra attenzione su quel cambiamento di allora, perché non vorrei che noi fossimo come quelli che dicevano nel 600 è giusto torturare, non con riferimento alla tortura, ma con riferimento al in galera. E qui già si comincia a vedere qualche tensione. Eh sì, perché ancora noi pensiamo in generale che sia giusto che le persone che hanno commesso, che hanno, diciamo in modo diverso ma è lo stesso, che le persone che hanno fatto del male debbano subire il male. Sistema giudiziario, non vedete subito, no, attenzione. Siccome l'argomento è un argomento, il sistema giudiziario, non noi soggettivamente. Perché dice non noi soggettivamente? Sì, perché non siamo noi che comunque diamo la pena, è il sistema, lo Stato sa perdonare. Aspetti un attimo. Cioè io prendo il suo intervento come un segno tangibile del fatto che si tratta di un argomento che suscita reazione, no? Che suscita reazione. Infatti io stavo parlando e l'ho interrotto giusto perché è anche così interpreto il suo intervento come una specie di rivendicazione di innocenza. No. Dice sommengami. Certo, scusi, abbia pazienza. Sì. Ma io ce n'ho tantissima, vede? Semmai ce n'è un po' minore. Sì. Vuole demolirmi attraverso no. No, non è questione di. Qui sta, ci sono un pochino voglio ascoltare lei, io preferisco. però la domanda che le pongo sì. Cioè la perdonanza è un sistema che dobbiamo avere noi privatamente come etica personale o ci deve essere un'etica di Stato? Questo che mi pongo. Ma io sono convinto che l'etica di Stato esiste intanto in quanto, cioè l'etica, la cultura, diciamo, che così siamo più neutri, la cultura dello Stato dipende dalla cultura dei cittadini. Perché non è mica stato, non è mica stato lo Stato a imporre ai cittadini di dire guardate, guardate come è stato, come è bravo, come ha capito Beccaria. Non è stato lo Stato. È stato esattamente l'opposto. Sono stati i cittadini che a un certo punto hanno, i cittadini, le persone, il loro pensiero, che hanno, a un certo punto hanno convinto Leopoldo II di Toscana a dire aboliamo la pena di morte, bisogna abolire la pena di morte. Voi da dove arrivate? Chi è arrivato adesso? No, beh, da ritardo lo so, ma siccome siete una comitiva, è un pullman ritardatario. Ma no, sono contentissimo che ci siate, anche perché siete almeno mostrate di essere piuttosto più giovani. Sì, e a me piace che ci siano delle persone anche della mia età, ma mi piace moltissimo quando ci sono dei giovani. E allora benvenuti. Però avete perso metà delle cose. Ma allora si stufano, poi magari per come dia l'aria. Stavamo parlando di quella che generalmente si chiama pena. Che cosa deve succedere a una persona che ha commesso un reato? E eravamo arrivati, avevamo fatto un pochino di qualche raffronto con i tempi di Beccaria, quelli che dicevano prima di Beccaria, un pochino prima, qualche 50 anni prima di Beccaria, dicevano ah, è giusto torturare le persone che hanno commesso un reato. E stavo cercando di fare un confronto con l'oggi. È intervenuto il signore dicendo sì, ma guardi che non è che c'entriamo noi, c'entra lo Stato, perché è lo Stato che ha una cultura della retribuzione, e cioè del pagare il male con il male. E io stavo dicendo, gli stavo rispondendo, dicendo guardi che se lo Stato ha questa cultura, a parte il fatto che lo Stato non esiste, no? Cioè non esiste lo Stato separato dai cittadini, lo Stato siamo noi. Tra l'altro questa è una democrazia, ed essendo una democrazia, no, noi possiamo decidere, no? Chi ci governa. Addirittura noi partecipiamo al governo, democrazia vuol dire governo del popolo. Vedete che sto parlando anche del... E allora siamo noi. Ma prima di tutto, prima ancora delle regole, c'è il modo di pensare. Perché? Tutte le volte in cui si verifica qualche cosa di particolarmente sconveniente, particolarmente drammatico, particolarmente tragico, le forze politiche tutte propongono sanzioni più severe, inasprimento delle pene. Perché lo propongono? Perché evidentemente i cittadini si aspettano quello, no? Altrimenti proporrebbero qualche cosa. Tutti i cittadini si tranquillizzano immediatamente quando viene detto... puniremo severamente chi si comporta in questo modo, no? Cosa vuol dire? Che i cittadini sono i cittadini quelli che pensano che vada bene così. La gran parte. La maggioranza. Certo, certo, certo, ci sono anch'io che la penso diversamente. Però la massa della cittadinanza la pensa così. E tant'è vero che vedrete che viene fuori un pochino anche stasera, no? Perché poi quando le cose si guardano da lontano è un conto, se si guardano più da vicino è un altro. E allora magari ci sono tante persone che dicono eh sì, va bene, si può pensare a un'alternativa rispetto a retribuire il male con il male, fin quando non sono stati loro vittima di un saccheggio in casa propria. Allora cominciano a cambiare un po' idea. Cosa gli faresti a quello lì? No? Per non andare a qualche cosa di più sostanzioso e serio del vedersi svaligiare la casa. Uno che, per esempio, subisce una rapina. E cosa gli farebbe a quello che l'ha rapinato? Immagini una pistola. O un coltello. tenta di scappare. No, lei tenta di scappare, non sì, no, scappa. Secondo me è più consigliabile se ha la pistola qua invece di cercare di scappare, tira fuori il portafoglio, ma com'è simpatico lei, e poi magari chiamare subito dopo il 113, o il 112, ma avere un attimo di cautela e di sangue freddo. Quindi il problema riguarda proprio il pensiero collettivo. Chi ha visto Auschwitz? Ha visto la reazione dei ragazzi, di qualche ragazzo, secondo cui, secondo questi ragazzi, io sto facendo una statistica raccogliendo dati sulle magliette della Rockefeller, dove viene quella lì? Da? Londra. Ah, da Londra, benissimo. Aggiungerò alla mia statistica. Perché ho un figlio, non spiego, perché ho un figlio che è patito. In tutti i posti in cui andiamo c'è una maglietta da prendere, la maglietta della Rockefeller. Che per fortuna non costa poi un patrimonio, perché sennò io sarei rovinato. Però questo è un altro discorso. E la reazione. Ma una ragazza alla fine della trasmissione mi ha proprio inseguito dicendomi, ma se a lei facessero questo, eccetera. Ma parliamo di microcriminalità. No, anche di macro. No, cose serie. Lei sta cominciando a prendere le distanze e dice, ma quelli che rubano una mela, certo, perché metterli in prigione. Questo lo pensano quasi tutti, soprattutto quelli che rubano le mele. Sì. No, io sto parlando di cose serie. Io sto parlando di che cosa deve succedere a una persona che commette una cosa importante, oltre che cosa deve succedere a una persona che commette una cosa meno importante. È un discorso che riguarda il generale. Allora, la domanda è, va bene retribuire il male con il male, oppure no? E questa qua è la domanda. In teoria no. E in pratica? Cioè, come dire, va in chiesa la domenica e dice tutti i fratelli, esce, vede un marocchino. In teoria e in pratica è così, no? E allora, per riuscire a dare una risposta a questa domanda, beh, bisogna partire un pochino da lontano, bisogna, in quel libro che lei ha visto, Il perdono responsabile, io parto dalle scritture e parto, oltre che partire dalle scritture c'è qui, perché mi sta, cioè va a finire che perdo il... Scusate un secondo, Un secondo soltanto, che è una questione di figli, e i figli sono... Lei faccia proprio lo spiritoso, Allora, bisogna partire un po' da lontano per riuscire a capire. Noi lo sappiamo, siamo un paese cattolico, ci sono tante persone che non sono cattoliche, ci sono tante persone che credono a un'altra religione, ci sono delle persone, tante, che non credono assolutamente che esista un Dio, ci sono delle persone che addirittura si arrabbiano un po' quando pensano che gli altri possano pensare all'esistenza di un Dio. Insomma, è una situazione molto variegata, però il paese nel complesso ha una cultura cattolica, giusto? E allora il primo riferimento, visto che si tratta di un tema che riguarda non soltanto la praticità degli effetti, ma riguarda dei convincimenti profondi, il primo approccio, o uno dei primi approcci, riguarda la relazione con la religione, e quindi la relazione con Dio. E lì si fa un po' di fatica, perché i riferimenti, i suggerimenti, i consigli o le imposizioni che troviamo nelle scritture sono piuttosto vari. Oh, ci sono dei passi della Bibbia in cui Dio si arrabbia come non so che cosa, eh? E ci sono dei passi invece nella Bibbia in cui Dio è eccezionalmente riconciliante. C'è però una costante nell'atteggiamento di Dio, che è quella di cercare la relazione con gli altri, con le persone, con gli uomini, con gli esseri umani. Cosa fa Dio quando si accorge, cioè lui lo sapeva anche prima, secondo me, si accorge che Caino ha ammazzato Abele? Lo sapeva anche prima, perché sennò non è anche lì, certo. Che cosa fa? Va a cercarlo. Va a cercarlo. E gli chiede: ma dov'è tuo fratello? E quello dice: sono forse io custode di mio fratello. E lui dopo poi dice: ha ammazzato Sarabia un pochino. Però, nonostante che Sarabia un pochino, non lo abbandona. Vi ricordate? Cos'è che fa? E quello lì è Adamo. Quello lì è Adamo che non aveva ammazzato nessun fratello, perché non ce l'aveva e quindi non poteva neanche ammazzare. Cioè, mangiare la mela l'ha buttato fuori dal paradiso, poi non poteva più buttarlo Caino perché il paradiso non c'era più, però gli ha detto: ah guarda, non ha mica fatto una cosa bella per niente. Però nessuno tocchi Caino, che è diventato anche lo slogan, il punto di riferimento di chi si occupa di queste cose. E lo stesso ha fatto con Adamo, prima ancora Adamo, cioè quello che ha mangiato la mela. Sembra, su suggerimento di Eva. Pensate che la state pagando ancora adesso. Voi, no, voi femmine soprattutto, perché i maschi dicono: ah! Sì, bastate, i maschi ne hanno inventati di tutti i colori per sottometterli. Chi ha scritto? E voi li avete. Non una femmina. Cosa? Chi ha scritto? Quelle robe lì della Adamo ed Eva? No, non una femmina. Però le femmine, devo dire che ai maschi è andato un po' una mano, perché alla fine sono state abbastanza al gioco. E sarebbero risvegliarsi. Sì. E la stessa cosa con Adamo, che è vero che l'ha cacciato dal paradiso terrestre, poi però non ha perso il contatto, anzi. Allora, da questo si capisce che comunque la cosa importante, la cosa dal punto di vista religioso, è la relazione. Quando una persona fa una cosa terribile, come ammazzare il fratello, Dio comunque non lo abbandona. Noi invece, cattolici o non cattolici, comunque, la nostra idea è che se qualcuno fa una cosa terribile deve essere immediatamente abbandonato. Ma abbandonato o escluso, se ha fatto una cosa gravissima, se ha ammazzato una persona, l'idea di tanti tantissimi è che debba essere ammazzato anche lui. Se ha fatto una cosa un pochino meno grave, ancora la legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente. Sono passati migliaia di anni dalla legge del taglione. Era un passo avanti incredibile sotto il profilo delle garanzie la legge del taglione rispetto a prima, perché prima la vendetta era senza limiti. Mi hai cavato un occhio, sterminò te e tutta la famiglia, era legittimo. Allora a un certo punto ho pensato: beh, mettiamoci un freno. Se ti cavano un occhio, al massimo puoi cavare un occhio. Noi siamo fermi ancora lì. Siamo fermi ancora a migliaia di anni fa. Nonostante che dopo che la Bibbia arriva anche il Nuovo Testamento. E credo che chi frequenta, chi legge, chi guarda, credente o non credente che sia, si ricorderà le beatitudini di Matteo. Io ce l'ho anche qui, c'ho qui un sacco di cose, se volete ve le rileggo. Se volete ve le rileggo. Lasciamo perdere l'altra guancia. che cioè delle ricordanze delle idee come te cinque. Volete che così ci ricordiamo tutti, però guardate che questo non comporta che io mi vada via dopo. Lei ci sa fare con cioè c'è qualcuno che ha l'iPhone che così tanto che io vado avanti a parlare mi trova la Bibbia su qua che non la trovo più, ma lei ha la Bibbia anche su lì? No, no, io ce l'ho qua residente stabile, soltanto che ormai tanto come sono. Eccola qua la Bibbia, aspetti un attimo che ho trovato la Bibbia, adesso trovo Matteo. Sono su ecco, però andiamo avanti, no? Dopo le beatitudini, il discorso della montagna. Voi avete udito che fu detto, è Matteo 5,38, voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno vi percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il prossimo tuo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, perché egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, nonostante questo, adesso troppo, poi cambiamo argomento, se no sembra che faccia il predicatore. Nonostante questo, nonostante che questo sia un paese di cultura cattolica, la risposta a chi commette un crimine è che debba soffrire. È tutto contrario di quello che ha detto Cristo nel discorso della montagna. Allora proviamo a chiederci, ma perché? Perché? Da dove viene? Da dove viene questa esigenza di pretendere la sofferenza di chi ha fatto soffrire? C'è qualcuno che... Prego. No, non c'è. La tengo un attimo, che bevo un bicchiere d'acqua. Sì, vado avanti, io la sento. Io penso che sia il contrario, cioè che la difficoltà dell'animo umano sia il perdonare, cioè è una reazione al fatto che l'uomo fa fatica a perdonare, o più che altro l'uomo... ma è la stessa cosa, diciamo. Sì, sì, non è il contrario. Il fatto è che il perdono è una cosa che non si può, come dire, decidere, è una cosa assolutamente, come dire, spontanea, di concetto. Perché, mi scusi, cioè vado avanti, cioè io penso che il perdono sia molto più vicino a quello che è la sfera del sentimento, cioè una cosa che nasce senza troppe, non so come dire, un perdono troppo ragionato molto spesso lo si fa pagare molto più di un perdono che viene naturalmente. Di conseguenza penso che questa, come dire, questa propensione dell'uomo a punire l'uomo per ciò che commette sia data da questo, cioè sia naturale, lei dice? No, non è naturale, è data dal fatto che è difficile perdonare e che raramente la collettività sa perdonare. Ma aspettiamo un attimo. È più facile il male. Sì. Lei dice, benissimo, su questo posso essere d'accordo, sulla seconda, no? Dice, è più facile il male. È più facile il male e quindi noi, siccome è più facile il male, tendiamo a far male a chi ha fatto male, giusto? Ma questo non presuppone, non ha come pensiero retrostante, come pensiero sotto, che quindi gli esseri umani siano indegni. Cioè il punto di partenza è che l'umanità può essere maltrattata, che le persone possono essere maltrattate. No, sono più che altro dei pregiudizi. Cioè... Questo poi vediamo se è una ragione o se è un pregiudizio. Ma mi chiedo, non c'è sotto questo sentire, questo pensare che, beh, adesso il carcere, però prima squartare una persona voleva dire togliergli addirittura l'unità della fisicità, no? Decapitarla, anche decapitare una persona, ma alla fine è diverso dall'impiccarla, perché proprio vuol dire separargli il corpo, no? Vuol dire non riconoscergli nemmeno più la sua interezza, no? Ecco, non c'è sotto questo atteggiamento svilente nei confronti dell'umanità, un po' come quello che aveva, vi suggerisco un altro libro, ne ho scritto anch'io un pezzettino, un commento, è un capitolo dei fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky. Il capitolo si chiama Il grande inquisitore, vale la pena di leggerlo qui, siccome io spero almeno tra un'oretta di veleggiare verso Milano, non ve lo racconto. Però il presupposto di una società organizzata in modo che c'è chi comanda e tutti gli altri obbediscono, e chi comanda, comanda anche attraverso l'uso della forza al punto da arrivare a bruciare gli eretici, il grande inquisitore è ambientato nella Spagna, a Siviglia, nella Siviglia del XVI secolo, e ha come presupposto quel che il grande inquisitore manifesta tranquillamente, dicendo gli esseri umani sono degli esseri spregevoli, sono degli esseri ribelli, sono degli inetti, bisogna necessariamente governarli, perché così come sono non sono in grado di gestire la loro libertà. E come si governano? Si governano attraverso il pane, e cioè sopperire alle loro esigenze fisiche, il miracolo, il mistero e l'autorità. Ma perché comunque, essendoci sotto questo, noi stiamo ragionando, perché lei ha ragione a dire che noi abbiamo degli impulsi, no? Però non siamo soltanto impulsi, perché se fossimo soltanto impulsi assomiglieremmo di più alle mucche che non agli esseri umani, che poi neanche le mucche sono soltanto impulsi. Noi abbiamo una parte molto molto animale, ma abbiamo anche una parte molto molto ragionevole. E la nostra caratteristica sta nel fatto che riusciamo, attraverso l'elaborazione del pensiero, a mettere in discussione delle cose che sentiamo, no? Allora, perché dare prevalenza a quel che si sente? E quindi ripeto la domanda: qual è la ragione? Cioè, perché pensiamo generalmente, io non lo penso, non lo pensa qualcun altro, qui non lo pensiamo magari nessuno, ma perché generalmente si pensa che il male debba essere retribuito con il male, che chi ha fatto soffrire debba soffrire? Per stabilire un equilibrio. E qual è l'equilibrio? A torto la ragione, penso che Ma che equilibrio è? Cioè, mi scusi, facciamo un discorso algebrico proprio, no? Se a un elemento negativo aggiungo un altro elemento negativo, aumento la negatività, non trovo equilibrio. Cioè, proprio algebricamente, no? Qui c'è la barra. Se sotto sta il male e sopra sta il bene, per arrivare, partiamo di qua. C'è il male. Per arrivare al bene non è che dobbiamo aggiungere un altro male. Dobbiamo contrastare, cioè equilibrare. Dobbiamo equilibrare il male con il bene, mica con il male. Con il male non si equilibra. Si squilibra ancora di più, no? Siete d'accordo? Meno due. più meno 2 fa meno 4, non fa 0. Siamo d'accordo? Io sono convinto che il ragionamento che ci sta dietro è un pochino questo, no? Ma il ragionamento che ci sta dietro è un pochino questo, anche in grandissimi pensatori. Kant la pensava in questo modo. Immanuel Kant, che è stato rimasto talmente impressionato che gli è anche caduto. La pensava in questo modo. Dovesse sciogliersi domani mattina la società, bisogna giustiziare l'ultimo assassino che sta nelle carceri. E poi questa parola giustiziare, che oltraggio fa alla giustizia. Giustiziare ammazzare una persona. E la domanda successiva è, ma si può? Io ho quasi risposto, ho quasi esposto la mia idea. Pensate che si possa davvero arrivare al bene attraverso il male? Proviamo a fare una cosa semplice, semplicissima. Succede che magari un genitore arriva a casa, un figlio che va alle elementari e tutto lì, c'ha qualche livido, c'ha qualcosa di strappato, il papà gli chiede, sai che hai fatto? Ho fatto a botte con un mio compagno. Perché hai fatto botte? Perché ho fatto botte? Perché c'erano le mie ragioni. Guarda che a voi non si fa a botte, sai. La prima volta che torni a casa ancora così ti do 4 sberle, così impari a fare a botte. Si insegna esattamente l'opposto. Così come la pena di morte insegna che è legittimo uccidere. Non che non si può uccidere. Insegna che si può uccidere, tant'è vero che lo fa lo Stato. Le istituzioni lo fanno. Ma si può arrivare al bene attraverso il male? E si pensa di solito che se io commetto, diciamo, un reato, sì, e poi vengo punito, poi questo reato dopo non lo commetterò più. Veramente. Quindi, cioè, si pensa così, ma è vero? No, cioè non è una cosa... Ma non è proprio così, ma proprio per niente, anzi. Ma proviamo a misurarci, perché poi il principio è sempre lo stesso, no? Che lo si applichi per le cose gravi o che lo si applichi per le cose semplici, che lo si applichi nel campo della sanzione o che lo si applichi nel campo dell'educazione. Guardate che è lo stesso, quindi qui c'è da mettersi un po' in crisi tutti noi, perché siamo tutti abituati. Non hai fatto i compiti? Questa sera non guardi la televisione. Che secondo me è una cosa abbastanza curiosa, per non dir di più. Perché dicendo, se non hai fatto i compiti, non guardi la televisione, si trasforma la televisione in un premio. E poi hai voglia tu andare in giro a dire, ah, ma la televisione, ma guarda cosa fa, eccetera, eccetera. Se prospetti ai ragazzi la televisione come premio, non possono fare altro che apprezzarla. No? Si dice, se non hai fatto i compiti, non lo so, ti ritiro il Game Boy, ti ritiro tutte le varie PSP, eccetera, eccetera, eccetera, no? Cioè, anche l'educazione la si fa attraverso la punizione. Ma chiediamoci un pochino, attraverso la punizione si insegna a essere responsabili o si insegna a obbedire? Dipende com'è la punizione. Lei dice, lei è un po' tosto. Sentiamo. Perché se la punizione è fine a se stessa, si risponde male con male. Però la punizione dovrebbe essere ragionata. Cioè, no, non fai i compiti, si trova una punizione in modo tale che il ragazzo è invogliato a fare i compiti per avere una paura. Ma secondo me, attenzione, proviamo a rifletterci insieme. Non è che il ragazzo è invogliato a fare i compiti o è invogliato a evitare la punizione? È invogliato a vietare la punizione, dei compiti gliene importa, uguale, preciso, identico. E attenzione, nel momento in cui manca il controllo, sicuramente il ragazzo i compiti non li fa. Si può intervistare una ragazza giovane, lei è abbastanza giovane, sì, lei è giovanissima. E beh, sono decreti, no? Io credo che lei pensi che noi tutti dopo domani muoviamo troppo vecchi per resistere per 3 giorni, no, 20 anni. Si meriterebbe quasi una punizione. Lei è la mamma. Allora, cioè, se c'è la mamma non si può, forse, ma si può, forse si può fare lo stesso. Lei ha 21 anni, quindi le sarà successo nella sua vita, nella sua pur lunghissima vita. Le sarà successo, le sarà ben successo una sera, dice, torna, mette d'accordo, torna a mezzanotte e lei arriva alle 2. Le sarà successo, forse. Cioè, è successo, ma lei non lo sapeva. Ma già una persona qualunque, mica lei, no? Per essere, no? No, beh, ma non c'è problema. No, non c'è problema, poi fatico di a casa. Non c'è problema. Ma no, facciamo con una persona immaginaria. Che dice, ah, dice, papà, torno a casa, questa sera, va bene, esci, cioè, però, ti raccomando, torni a casa a mezzanotte, alle 12:30. 12:30 sei a casa. Perché? Perché sei ancora piccola qua là, su e giù, glielo spiega anche, papà. E lei arriva alle 3. Arriva alle 3. Perché se papà sta su, sta sveglio, l'aspetta perché è anche molto preoccupato, vero? È molto preoccupato e allora è lì che è tentato quasi, non lui, ma la mamma è tentata di chiamare in ospedale la polizia per sapere che alle 2:59 ha alzato la cornetta quando finalmente entra la figlia. Entra la figlia e gli si chiede perché sei arrivata così tardi. Inventa una scusa come quelle che si inventano a quell'età lì, è passato un elefante forte, il traffico, qua là su e giù, non potevo. E vabbè, dopo un po' ci si arriva. Eravamo d'accordo che arrivavi alle 3, alle 12:30, perché lei. E invece sei arrivata alle 3. Bene, per un mese non esci. Passano 4 giorni e purtroppo, vede che non è lei, è un'altra persona, perché purtroppo c'è un trisnonno che è ancora vivo, però è 45 anni. C'è un trisnonno che è ancora vivo, che però sta male, che abita nelle Marche, invece noi siamo qui. E allora i genitori, il trisnonno che sta male, poi ci vogliono un sacco di bene, dicono alla figlia, guarda, noi dobbiamo andare da trisnonno, staremo via qualche giorno. Mi raccomando, sei in punizione, non puoi uscire. Ecco che ridono. Sì, ridono perché lo sappiamo tutti che quando i genitori non controllano, hai voglia la punizione. Fanno esattamente quello che intendono a fare. Punizione o non punizione. Che invece sarebbe diverso se si ragionasse. Una cosa, per esempio, sulla quale si può ragionare è il rapporto di fiducia. Sì, guarda, tu sei, io, tu sei minorenne, ancora non potresti, no? Non puoi decidere per conto tuo. Ci siamo messi d'accordo perché io avevo una grande fiducia in te, se no sarebbe stato illogico, se non mi fidassi, farti uscire anche soltanto fino a mezzanotte e mezzo, no? Ma io posso avere ancora fiducia in te. Cosa direbbe lei? Lei non vuole, perché dice, poi, se lo dico, poi va. Ma uno può avere fiducia in una persona che la fiducia l'ha tradita? Dice, allora, stai a sentire, non è che io ti punisco, no. Ma io ti dico, attenzione, tu non puoi uscire fino a quando non avrai riguadagnato la mia fiducia. Può essere domani, può essere anche tra 15 giorni. E non è una punizione quella. E non viene percepita come punizione, necessariamente. Perché è una cosa diversa, è un discorso diverso. Non c'entra niente con la punizione. È una cosa diversa. Vuoi? Puoi? Sei capace? Domani puoi uscire ancora. È necessario che prima si ricongiunga il rapporto di fiducia che esisteva tra me e te, che invece è stato rotto. Uguale, preciso, identico per quel che riguarda le cose più importanti. Quei ragazzi, era uno bianco. Lo sapevo che veniva fuori da uno bianco. Talmente di un parere a quello. Stai ascoltando delle ore a aprire la porta. Sì, lei comincia a prepararsi. All'addio, buon altro, mi piace sentire veramente. Sì, lei dice, quelli della luna bianca, questo qua che esce dopo. Qui lo scappatello, possiamo stare delle giornate a parlare di cose. Sì. Però quando si va a toccare i problemi seri, cioè sì. Gente che organizza perché va a ammazzarmi dei carabinieri per scherzo, oppure che ti impedisce di lavorare, qui ci stiamo tutti divertendo, però io dico, legalità, giustizia, se manca lavoro non ci possono essere nemmeno queste. Certo. Io forse ho fatto serata, non so trovarla ancora. Non ne voglio fare una questione personale. Una persona che conosce anche lei è quella che mi ha tenuto la mano sulla testa per non reagire, purtroppo sono un animale, ti devo dire, non reagire male o contro me stesso o contro chi mi ha fatto delle cose che sinceramente la giustizia me la sarei fatta da solo, per la giustizia e legalità non riesco. Però io userei, uno potrebbe dire mi sarei vendicato, perché mischiare la parola giustizia con la violenza a me non piace. Però nessuno tocca io, ma nessuno tocca bene, prima se siamo non toccare a bene. È appunto quello che stiamo facendo, cercando di insegnare a non toccare a Abele. Quello che stiamo facendo è cercare di insegnare a non toccare a Abele. Io sto dicendo che per insegnare a non toccare a Abele non bisogna far soffrire la gente. Come fanno a riacquistare la fiducia a questi che hanno ammazzato a freddo parecchie persone a così? Allora, in un contesto di... proviamo un po' a distinguere. No, questo non ci credo, però. Come faccio? Ci vuole qui, ci vogliono 15 giorni. Sulla voce, sulla bella voce. Allora, volevo dire, No, lo dica. Oltre alle violenze sono di vario genere, no? non c'è solo la violenza fisica, io ritengo più insopportabile, almeno per me, la violenza morale. Perché dipende da cosa le fanno. Mi tolgono il gusto della vita togliendoti il lavoro in un modo subito, io metto sempre il lavoro come punto centrale, secondo me, tante cose, e da lì la persona si realizza. No, c'è vari modi per far del male anche senza torturarlo, cioè dai una morte civile, lo metti alle margini, però, ecco, per cui... reagiamo col bene, va bene, mi dica come fare a reagire col bene. Se ha un attimo di pazienza, io stavo quasi per cominciare. Io stai ad ascoltare delle ore, però comincio a orientare. Vede che se ci sono queste reazioni di pancia. Però attenzione, perché le reazioni di pancia non consentono di ragionare. Le reazioni di pancia non consentono di ragionare. E allora bisogna cercare... Non riesco a ragionare con una persona che ha freddo, calcola di o avvelenare o adulterare degli alimenti o per profitto, puro profitto. Allora, non riesco a ragionare con questo. Mi scusi. È il mio limite. Abbiamo. Parlo più. Abbiamo tre livelli. Se mi restituisce il microfono sono più sicuro. Abbiamo tre livelli. Scherzavo. Però non venivo ad ascoltare, ero curioso di sentire. Sì, aspetti là, però sì, ascolta. Però perché adesso mi sono confuso, abbiamo tre livelli, non me ne ricordo più nessuno. Allora, abbiamo tre livelli. Il primo livello di confusione. Il primo livello di confusione è che qualcuno pensa che io non consideri negativissimamente il male. Ah, certo che è una cosa terribile ammazzare una persona. È una cosa terribile ammazzarne due, ammazzarne tre, è una cosa terribile far perdere volontariamente il lavoro a qualcun altro e via dicendo. È una cosa terribile torturare, è una cosa terribile lo stalking e via dicendo. Sono delle cose terribili anche, delle cose che noi non ci accorgiamo nemmeno di fare eppure le facciamo. Anche nei rapporti tra marito e moglie delle volte. Io non dico che sono delle belle cose, dico che sono delle cose terribili. Primo. Secondo. Io non dico affatto che una persona che è pericolosa debba poter svolgere la propria pericolosità, e cioè debba essere messo in condizioni di fare il male. No. Se una persona è pericolosa, la si chiede da un'altra parte. Se una persona è pericolosa, fino a quando è pericolosa, la si chiede da un'altra parte. Però attenzione, già ci sono delle modalità per tenere le persone da un'altra parte. Già ci sono delle modalità che in primo luogo rilevano a proposito della tutela, della dignità delle persone, qualunque cosa abbiano fatto. Perché qui dobbiamo metterci d'accordo, o le persone hanno una loro dignità, come dice la nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, che è il punto di partenza, è l'elemento giustificativo per cui i diritti sono distribuiti a tutti allo stesso modo, no? Perché se tutti non fossero degni, allora che senso avrebbe? È il principio informatore, è il presupposto della democrazia. Se le persone non fossero degne, ma che senso avrebbe consentire loro, anzi fare in modo che è diverso, che governino? Allora, primo, ci sono delle modalità che confliggono assolutamente con il riconoscimento della dignità delle persone. non rispetta la dignità di una persona, farla vivere per 22 ore al giorno chiusa in gabbia, insieme ad altre persone che non ha scelto, impedendole alla persona di vedere i propri familiari e soltanto i familiari, salvo eccezioni, per 6 ore al mese e basta, obbligandole a fare la doccia quando la fanno tutti, a farsi curare non dal medico di famiglia ma dal medico che sta lì, ammesso che ci sia perché non sempre c'è, e via dicendo. Ah no, riceverà magari neanche le lettere e via dicendo. Allora, questo è un primo punto. È un primo punto di partenza. Primo. Ma secondo, vediamo un po' se poi questa roba qua... Perché quello che... Io faccio veramente fatica. Vedete che mi impappino addirittura. Quello che io non riesco, che non riesco a spiegare, è come si possa... così esprimere un pensiero senza preoccuparsi di verificarne il fondamento e la conseguenza. Voi lo sapete, credo. Non lo sapete, ve lo dico. Il 68% delle persone che escono dalla carcere commettono nuovi reati. Allora vogliamo smettere di pensare che la deterrenza ha un'efficacia. Non è vero. Non è vero, perché ci sono i dati che lo dicono. Nei paesi in cui esiste la pena di morte, mi spiace che nessuno abbia qui il perdono responsabile, perché io non ho pensato di portarmelo dietro perché ero di corsa, perché sennò vi avrei letto qualche statistica, qualche osservazione, qualche cosa del genere. Ce l'ho anche sull'iPhone, però ora che lo trovo sono già andato a Milano e quindi voi non mi potete sentire. Nei paesi in cui esiste la pena di morte esiste più criminalità che non nei paesi in cui non esiste. Hanno fatto degli esperimenti, hanno confrontato Singapore con Hong Kong. E Singapore la pena di morte sì e poi la pena di morte no. Livello di criminalità, prima o poi il cespico e ridete tutti. Livello di criminalità sempre analogo. A Hong Kong non c'è la pena di morte, a Singapore sì. Livello di criminalità analogo. In tanti paesi degli Stati Uniti c'è la pena di morte. Nei paesi degli Stati Uniti in cui esiste la pena di morte, il tasso di omicidi è incredibilmente maggiore che quello dell'Italia. Noi parliamo delle cose senza conoscerle. Quanti omicidi si verificano in Italia ogni anno? Perché ha un'influenza poi questa, no? Sulla sicurezza, cioè sulle esigenze di rassicurazione, non di sicurezza, perché sono diverse. La punizione dell'altro rassicura, non dà sicurezza. Gli omicidi sono dai 500 ai 700 all'anno. Negli ultimi anni sono stati in crescita o in diminuzione? Sono stati in diminuzione, ma di parecchio, dal 2007 al 2009 dell'8%. Le violenze carnali, i reati sessuali, sono in aumento o in diminuzione? Ah no, sono in diminuzione anche quelli. Ho qui la statistica del Ministero dell'Interno. 4%. E tuttavia quelli che passano per il carcere, non quelli a cui viene minacciata una punizione, ma quelli che la subiscono la punizione, 68 volte su 100 commettono nuovi reati. La deterrenza. La deterrenza non c'è. Ma d'altra parte proviamo un pochino a fare dei casi concreti. Mamma mia, sono già le 10:10. A fare dei casi concreti, c'è una signora che si è sposata, che aveva 20 anni, con uno che amava follemente. E questo qua che amava follemente, i primi mesi di matrimonio vanno benissimo, ma proprio si adorano tutte e due. Poi lui fa l'operaio dire, c'è un mattone che gli sfiora la testa, lo prende appena appena, cambia carattere. Cambia carattere da amorevole e dolce che era, diventa una persona violenta, diventa una persona sgarbata, arrogante, aggressiva. La signora è una fervente cattolica, è convintissima dell'indissolubilità del matrimonio e quindi invece di divorziare o anche soltanto di separarsi sta con suo marito e subisce. Finché passano 20 anni e il marito torna a casa una sera ubriaco e le dice una cosa che così offensiva non le aveva mai detto. Lei sta rammeggiando in cucina, sta facendo da mangiare in mano un coltellaccio, si gira di scatto, zacchete. Gli mette il coltello nella pancia e lo ammazza. Non ha ancora finito di infilare il coltello, si è già seppellita, perché figurarsi, lei così ligia, così... Però l'ha fatto. Ha funzionato la deterrenza, ha funzionato nei confronti di questa signora il fatto che nel codice penale, all'articolo 575, ci sia scritto che chiunque ragiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. Ha funzionato la deterrenza, ma neanche per idea. Generalmente, molto spesso succede che delitti di questo tipo, i più gravi, si verificano in circuito chiuso, a corto circuito, si dice. Cioè con una reazione che è assolutamente incontrollabile. E facciamo il caso estremo opposto, c'è il killer della mafia. Il killer della mafia lo sa benissimo che corre il rischio di essere messo in prigione, anzi sa benissimo, perché ci sono, e sono tanti, che ci sono persone che stanno al 41 bis, che è un carcere di una durezza che io non lo so se sfiora o non sfiora la tortura. Lui lo sa benissimo, eppure continua a fare il killer della mafia. Funziona la deterrenza, no? Perché? Perché lui la cosa che sa fare è ammazzare la gente, anzi è anche molto bravo, quindi perché è convinto che gli altri beccano, ma lui non lo si becca. Perché i suoi amici sono mafiosi. Se non continua a fare mafioso anche lui, si trova completamente isolato. E via dicendo. Perché? La deterrenza funziona, no? Deve funzionare. D'altra parte, ma voi pensate che possa soltanto lontanamente immaginarsi un sistema di controllo che scopra che funziona la deterrenza, ammesso che possa funzionare anche in quei casi? Non funzionerebbe comunque nei confronti della signora che ha ammazzato il marito, non funzionerebbe comunque nei confronti del tossicodipendente che è in crisi d'astinenza e non ha i soldi per andare a comprarsi la coca e allora svaligia la tabaccheria, non funzionerebbe comunque. Ma perché possa funzionare la deterrenza sarebbe necessario che tutti coloro che commettono un reato venissero puniti. Ora, statisticamente, nel giro di 10 anni saremo in galera tutti. Eh sì, perché non tutti, la metà della popolazione adulta, più della metà della popolazione adulta, perché ogni anno in Italia si arrivano alle procure della Repubblica quasi 3 milioni di notizie di reato, che vuol dire in 10 anni 30 milioni e in 20 anni 60 milioni. A parte quel fatto, ma è impossibile, no? È impossibile riuscire a scoprire. Come si fa a scoprire l'autore di uno che sta rubando la macchina qui sotto? Speriamo di no. Come si fa a scoprire? Ma non soltanto i furti. L'87, se mi ricordo bene, l'87%, no, non è l'87%, è qualcosa di meno, ma non tanto, perché l'87% riguarda un'altra cosa. Di delitti resta impunito perché non si riesce a scoprire chi l'ha commesso. La deterrenza, l'87% dei delitti rimane impunito perché è impossibile riuscire a scoprire chi l'ha commesso. Oppure, per riuscire a aumentare un pochino il livello delle scoperte, bisognerebbe avere delle strutture che costerebbero l'ira di Dio. Oddio, si potrebbe fare molto meglio di quello che si fa adesso, di quello sono sicuro, però sposterebbe dello 0,1, dello 0,2, dello 0,3, sarebbe più celere il processo, sarebbe sempre meglio. Ecco, il confronto lo si può fare su questo. Ogni anno circa quasi 3 milioni, 2 milioni e 7, 2 milioni e 8 di notizie di reato, ogni anno 200.000 condanne. Chi è? Se c'è qualche professore di matematica qui che ci calcola subito la percentuale? Vuol dire che saranno invece di 2 milioni e 7, perché ci sono anche quelli che non sono reati, saranno 2 milioni, su 2 milioni 200 mila, il 10%. Ma è fisiologico che sia così, è così anche negli Stati Uniti d'America. Sarà qualche cosina di più, sarà forse qualche cosa di meno, chi lo sa? perché è impossibile. Ma che struttura sarebbe necessaria per riuscire a scoprire gli autori di 2 milioni di reati? Quante persone dovrebbero essere impiegate a far quello e basta? E che cultura sarebbe necessaria? Cioè, che modo di pensare? Perché molto spesso i controllori la pensano come i controllati. E se i controllori la pensano come i controllati, e non è che proprio vadano veramente a cercare. Anzi, generalmente chiunque se la prende quando il vigile gli dà la multa. È vero? È raro che uno dica: oh, me la sono meritata, guarda, vado a pagarla molto volentieri. Sì. Anzi, più frequentemente si va dal sindaco e gli dice: guarda, il tuo vigile a me ha dato la multa, oh, ma ero lì che un minuto per andare in farmacia a prendere una cosa e esco e trovo la multa, ma è scandaloso. Non è così che si fa. E allora è un sistema che ci costa, tra l'altro, sapete quanto costa il sistema carcerario in Italia all'anno? Costa quasi 3 miliardi di euro. Per avere come risultato il 68% di recidiva. Quindi, da una parte c'è il problema della garanzia, del riconoscimento e della garanzia della dignità delle persone, dall'altra c'è il problema del funzionamento. Che alternative si possono pensare? È pieno il mondo di alternative. È pieno il mondo di alternative, dalle alternative più mastodontiche che riguardano, non lo so, in Sudafrica è stata costituita, voi sapete che in Sudafrica c'era l'apartheid, no? Cioè i bianchi comandavano, i neri erano quasi a livello di schiavi, insomma. Erano reclusi in queste loro città in cui non c'era acqua, non c'era energia elettrica, non c'era niente. E oltretutto i bianchi ogni tanto andavano, ammazzavano qualcuno. C'è un libro che si chiama La prima guerra del football, che è scritto da un grandissimo reportagista che era Kapuscinski, che è morto un paio d'anni fa, che ha un paio di capitoletti dedicati anche a quello che è successo nell'apartheid. E ogni tanto anche i neri, insomma, si vendicavano. Allora, finisce l'apartheid e la previsione mondiale è che scoppi una guerra civile. E la guerra civile non c'è stata. E com'è che non c'è stata la guerra civile? E perché Mandela ha istituito questa commissione per la verità e la riconciliazione, presieduta da un vescovo anglicano, Desmond Tutu. Lo scambio della verità, il raccontare come sono andati i fatti in cambio dell'amnistia. E non c'è stata una riconciliazione generale, però si è evitata la guerra civile. Oh, lì erano delle cose mica da poco, ma proprio mica da poco per niente, e si è evitata la guerra civile. D'altra parte, faccio una piccola parentesi, faccio un passo indietro, ma voi pensate che veramente la vittima di un reato possa essere ricomposta, possa essere riparata attraverso la sofferenza altrui? Il sistema tradizionale, quello per cui la persona che ha commesso un reato è obbligata a soffrire, soddisfa soltanto l'esigenza, la voglia di vendetta, punto e basta. Poi la vittima resta rotta, fratturata, frantumata tanto quanto era prima, perché nessuno si occupa della vittima. E per cercare di recuperare il suo passato e il suo futuro, la vittima ha soprattutto bisogno di due cose, di avere due risposte. Per quello che è funzionata la commissione per la verità e la riconciliazione, perché la vittima ha bisogno di sapere due cose, in particolare ha bisogno della ricostruzione del fatto. E quando c'erano lei, questo... Voglio dire, quando la vittima di una rapina, come sono andate le cose, lo sa, ma quando invece la vittima è il parente di una persona che è stata uccisa, non lo sa. No? E poi ha bisogno di sapere perché e perché proprio a me. Le domande che tormentano la vittima sono queste due. Perché è stato fatto del male a me? E chi è che ha la risposta? Com'è? È soltanto il colpevole. Si usano, sono legge in tanti, tantissimi paesi, delle procedure di mediazione penale. Ci sono delle risoluzioni dell'ONU, delle direttive dell'Unione Europea. Adesso provo a vedere se magari ve le trovo, che così ve le cito. Sono tutte cose che riporto nel perdono responsabile. Quindi basta andare in biblioteca e guardarsi il libro. Che riguardano la giustizia riparativa, cioè che ripara, che invece di separare, di escludere, di dividere, rimette insieme i cocci, ripara. E come si fa a riparare? Beh, una delle strade, la strada più importante, la strada più praticata è proprio quella del contatto tra la vittima e il colpevole. La prego. Mentre sta parlando, a parte, no, nel senso che troppo sono emozionata. No, ma vabbè, ma se non la sento, cioè il problema è loro, non è suo. Allora, a parte il fatto che dagli esempi che ha fatto, partendo dal Vangelo che ha detto, eccetera, Nelson Mandela stesso, a me viene in mente anche, per esempio, Wotila. Sì. Ha fatto una cosa grandissima lui, è stato, ha subito un danno e poi sì. È andato a parlare con il suo, diciamo così, l'attentatore. Però tutte queste persone, partendo proprio dal Vangelo, sì, hanno una caratteristica comune, che è quella di essere un po' controcorrente. E io credo che noi, genere umano semplice, non abbiamo proprio questa capacità e questa forza di andare controcorrente. Il libro che ho scritto parte da... quasi parte, perché c'è qualche considerazione prima di che cosa stiamo parlando, eccetera. Dopodiché comincia così, guardi, le leggo perché ce l'ho qua. Sono preoccupata per quello che dovranno affrontare nelle prossime settimane il ragazzo e la sua famiglia. Non proverò mai odio per nessuno e spero tanto che anche gli amici di Lorenzo facciano altrettanto. Sicuramente quel reato non voleva uccidere mio figlio. Non si è reso conto di quello che stava facendo. Queste sono le parole della mamma di Lorenzo Cenzato, che è stato ucciso il 10 di agosto dell'anno scorso a Sovico, vicino a Monza. Non era un prete, non era il vescovo anglicano, non era il papa. Quando Bachelet, che era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato ucciso dalle Brigate Rosse, beh, dopo due giorni ci sono stati i funerali. Il figlio, nel parlare in chiesa ai funerali, ha detto: la famiglia perdona i suoi assassini. Era un ragazzo. Da qui è nata sostanzialmente, da qui come da altre cose analoghe, è nata sostanzialmente la fine del terrorismo. C'è un capitolo dedicato a questi aspetti, cioè alla reazione delle persone. No, poi magari non siamo capaci, io non saprei dire cosa farei io, ma posso dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Posso dire che cosa secondo me è giusto e che cosa è sbagliato. E poi non sempre si riesce a fare qualche giusto, vero? Uno dice: non devo arrabbiarmi con mio figlio, poi quando il figlio torna e entra in casa con le scarpe piene di fango, dice: no, si strilla come un'acqua. E poi passano tre secondi e dice: no, non devo arrabbiarmi con mio figlio, ci sono cascato un'altra volta, no? Però già sapere quel che è giusto e quello che è sbagliato è un passo verso il potersi comportare in un certo modo. Bisogna educarsi, non è che sia una cosa che, cioè, millenni e millenni di storia che abbiamo alle spalle, è come se facesse parte di noi stessi questa idea che il male va ricompensato col male, perché è stato così sempre. Allora non è una cosa facile, non sto mica qui a dirvi una cosa facile, se no avrei scritto un bel cartellone pubblicitario, tutti lo leggevano e dicevano: oh, non ci avevo mai pensato prima, va bene, d'accordo. Eh no, è una cosa difficile. È una cosa difficile mettere insieme qui con qui. Perché qui è quello che sentiamo, no? E invece qua dobbiamo arrivarci. Dobbiamo fare un percorso. Ma pensate, ma vi siete mai chiesti perché si vota a 18 anni non prima? Perché si può prendere la patente della macchina a 18 anni non prima? Perché si può comprare una casa a 18 anni non prima? Perché ci si può sposare a 18 anni non prima? Perché? È perché prima non si è capaci, almeno sotto il profilo legale, di prendere decisioni. E perché non si è capaci di prendere decisioni? Perché la nostra sensazione predomina moltissimo la nostra ragionevolezza. A un bambino di 10 anni, se gli si dicesse: gestisciti tu, fai i compiti quando vuoi, ti alzi quando vuoi, vai a scuola se vuoi e via dicendo, vi viene da ridere. A una ragazza di 21 non bisogna dire niente, perché l'università ci va per conto suo, è lei che si gestisce del tutto. E perché? O perché ci sono voluti almeno 18 anni per imparare a mettere insieme le due cose, tra le altre cose, perché non è che si è imparato soltanto quello. Ce ne sono tante di persone che, altro che 18, altro che 21, altro che 30, altro che 40, 50, 60, 70, che ancora non hanno imparato. È il guaio grosso, no? Il guaio grosso è quello. Allora cerchiamo un pochino di guardare i due aspetti. E guardate, io sto toccando tutti e due gli aspetti, perché non sto toccando soltanto l'aspetto della ragionevolezza, sto toccando anche l'aspetto dei sentimenti. I sentimenti della vittima, che oggi con questo sistema sono assolutamente ignorati. La vittima sono fatti suoi, la vittima sono fatti suoi. Anzi, la vittima molto spesso, da questo meccanismo, è costretta a soffrire di più. Perché? È perché deve andare in tribunale a deporre, a ricordare delle cose che le fanno il male, che un pochino meno forse, ma mica tanto meno, che le hanno fatto male quando si è verificato il fatto. Noi invece va tutto bene, ma io non lo capisco questo, cioè lo capisco soltanto nella misura in cui, per quel che dipende dal fatto che non ci si ragiona sopra e che non si è magari sempre informati a sufficienza. Ma guardate, è difficile, perché quei ragazzi che c'erano l'altro ieri da Augias, e il perdono responsabile l'avevano letto. E avendo letto il perdono responsabile, ce n'è stata una in particolare che mi ha seguito dopo, dicendomi le cose che io mi sarei aspettato di sentirmi dire da una persona che non aveva letto il libro. Per dire come è dura questa difesa, questa autodifesa verso un cambiamento, verso un cambiamento di punti di riferimento. E come è dura delle volte anche nei ragazzi, che sono indubbiamente molto più liberi degli adulti, perché non è che abbiano pensato per una vita la stessa cosa, no? La prego. Mi dispiace, alzare la voce. Rieducativa, dovrebbe averla, invece non ce l'ha. Pratico, adesso come ha detto, un carcere sovrappopolato non ce l'ha, però... Anche quando non è sovrappopolato, l'87% dei detenuti sta chiuso 22 ore al giorno in cella, senza far niente. No, Sì, bisognerebbe però, si può ripensare il sistema, se le persone in generale non pensano, si può ripensare il sistema soltanto dal momento in cui le persone in generale non pensano che chi ha commesso un reato debba soffrire. Perché questo meccanismo funziona benissimo per far soffrire le persone, ma non funziona per niente per recuperarle. Parte tutto da lì, noi abbiamo questo vezzo che cominciamo a praticare quando siamo piccolissimi, da ritenerci irresponsabili. Cioè noi siamo sempre innocenti. È sempre qualche cosa che riguarda qualcun altro. E invece non è così. E invece non è. Abbiamo tutti i piedi bagnati in queste cose. Tutti abbiamo i piedi bagnati. D'altra parte, vedete le difficoltà delle persone che hanno la voglia e anche il coraggio di esprimere le proprie, no? Perché ci sono quelle che dicono, ma insomma, però il Signore là in fondo, ce ne sono tanti, credo, ce n'è qualcuno almeno che la pensa come lui, che però si tiene indietro. Perché è così. Allora, che cosa vuole che venga fuori come sistema, diciamo, sanzionatorio? Da un complesso di persone che pensano che chi ha fatto del male debba soffrire. Viene fuori un sistema per cui chi ha fatto del male soffre, punto, basta. Non gliene importa niente a nessuno che vengano recuperate queste persone, cioè a qualcuno sì. Ma sui grandissimi numeri non importa niente a nessuno. Non importa niente a tanti. E lei è la più giovane di tutte, suppongo. Povera, credo che sì, stia annoiando come non so che cosa. Potremmo cantare una canzoncina tutti insieme. Come ti chiami? Raffaella? Sei contenta di essere qui, Raffaella, o no? Hai sonno? Domani devi andare a scuola? Facciamo magari... Qualcuno che c'è qui racconta ai tuoi genitori domani che c'è. Ma dico la Norvegia allora, che è stata la Norvegia è stata clemente con quel ragazzo che ha ammazzato. Beh, non è neanche stata clemente, no, non hanno ritenuto che fosse incapace di intendere i voleri. E allora lì non si tratta di clemenza. Noi siamo anche lì. Dopo il carcere o prima del carcere o insieme al carcere bisognerebbe affrontare il tema degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quelli che sono senza, cioè, da una parte chi sta in prigione perlomeno si dice ha colpa di quello che ha fatto, no? È responsabile di quello che ha fatto. Quegli altri non sono responsabili perché incapaci di intendere il volere non sono responsabili, stanno ancora peggio. Stanno ancora peggio. Però in Norvegia, per esempio, in Norvegia, noi che ci lamentiamo così, guardate che tutte le società più evolute delle nostre, l'ergastolo non ce l'hanno. Ma cosa vuol dire questo? Ci riflettiamo un pochino, saranno tutti stupidi con gli altri. Quelli più evoluti, quelli in cui la persona è considerata effettivamente, no? Non quelli che hanno la tradizione del linciaggio, per esempio, no? Perché uno potrebbe dire ah, sono più evoluti quegli altri, no? Quelli che hanno l'attenzione alla dignità della persona. E vorrà dire qualche cosa o no? Noi siamo quelli che sappiamo tutto e via. A dispetto, giusto, per dire chi crede delle scritture, a dispetto del discorso della montagna e a dispetto poi delle conseguenze. E insomma, bisogna proprio, la prego. Ma il problema del salto, proprio del ragionamento, sì, fa pena retributiva e pena rieducativa, e quindi la prevenzione speciale e prevenzione generale. Sì. È una cosa... È diverso. Sì, non c'entrano, no. Cioè, l'obiettivo che deve tenere la pena, sì, cioè far sì che il reo non ripeta quel reato, sì, e far sì che la socialità non voglia fare, sì, dei reati. E tutto il discorso sulla detenzione che è criminogena, sì, adesso tutte queste cose dico perché sono più intelligente, sì, sono studente di giurisprudenza, ho fatto diritto penale. Sì. Sì. La mia domanda è, tutti quelli in statale A Milano. Non a Insubria. No, a Milano. Sì. Tutte queste cose le insegnano uno che ha solo 19 anni e le dicono il fondamento costituzionale, la pena deve tendere all'educazione, sì, certo. Kant con la retribuzione, la pena di morte, parlano anche dell'aborto, passa mesi a studiare sul libro. Sì. E poi, cioè nel senso, la totalità della società italiana non pensa che sia giusto punire una persona perché ha rubato, non far sì che questa persona non rubi più, perché? Bisogna chiedere alle persone, io penso che bisogna chiedere. Il nostro Parlamento è fatto da avvocati che hanno studiato, cioè nel senso. Ma gli avvocati che hanno studiato, cioè, allora qui c'è un libro, lei che fa giurisprudenza, potrebbe leggere di David Garland, La cultura del controllo, è un libro così, che è stato tradotto in italiano, è un anglosassone, insegna alla New York University. Un libro nel quale si parla anche del come mai oggi negli Stati Uniti d'America ci sono 2,5 milioni di detenuti, 2,5 milioni di detenuti, popolazione di 300.000 abitanti, mentre negli anni 60, 70 era neanche un decimo, forse meno. E perché è successo? Perché è successo che si è abbandonato un sistema che esisteva allora, poi c'era anche la pena di morte, però c'era anche un diffusissimo sistema di recupero delle persone. E una delle cause è che la politica ha sottratto alla professionalità il settore. Perché? Perché è il tema della rassicurazione è un tema che porta molto facilmente tantissimi frutti, no? E siccome qui non si tratta di sicurezza, si tratta di quel che succede a un ragazzo, a un bambino, 10 anni, 11 anni, che una sera vede alla televisione un film dell'orrore. La sera prima ha dormito calmo, tranquillo, quella sera lì poi la prima cosa che fa cerca di intrufolarsi nel lettone dei genitori, e se i genitori lo prendono sta lì e si tranquillizza, e se i genitori non lo prendono invece che cosa fa lui? Una paura dell'altro mondo, sta nel letto fermo, immobile, dopo aver controllato tutto, le finestre, le porte eccetera, chiuso a chiave quello che poteva chiudere, poi se ne sta lì immobile. Anche quando è sveglio, fa finta di dormire, respira in modo che sembri che stia dormendo, perché così se arriva qualcuno e lui sta dormendo, non l'ha visto, no? Ma la sicurezza sua, la sua sicurezza obiettiva di quella sera, è diversa dalla sera prima o no? No, che non è diversa. Lui era sicuro la sera prima, tanto quanto è sicuro. È la rassicurazione, l'esigenza di rassicurazione che cambia. La sera prima non aveva bisogno di rassicurarsi, la sera dopo sì. E allora, rassicurare le persone vuol dire portarsi un sacco di voti, no? E generalmente la rassicurazione come si fa? In galera. Aumentiamo le pene, pene più severe, certezza della pena, qua là su e giù. No? Ma lo sanno tutti benissimo. Lo sanno tutti benissimo che il 10%, a dir tanto, dei reati ha un autore noto. Lo sanno tutti benissimo che il 68% di chi esce dal carcere commette nuovi reati. E via dicendo, lo sanno tutti benissimo che non sono soltanto le persone. Ma voi immaginatevi, no? Lei... Qualcuno, così indifferentemente, metta che è parente di una persona che in un attimo di distrazione ha portato via una collanina, mettiamo, no? E viene condannato mica tanto, a 6 mesi. Viene condannato a 6 mesi di prigione e la moglie per quei 6 mesi è senza marito, che probabilmente perde il lavoro. Può vederlo 6 ore al mese, lei in concorrenza con tutti gli altri familiari. E i vicini di casa cominciano a guardarla in un modo strano. Perché dov'è suo marito? Andava all'estero, tutte queste robe qua. Non è soltanto quello che è stato in carcere, che quando esce dice adesso gliela faccio pagare. Perché mi ha tenuto 22 ore al giorno chiuso in una cella, qua e là, su e giù, eccetera, eccetera, e tutto il resto. Ma anche la moglie non è molto ben disposta nei confronti degli altri. Essere i figli, neanche i figli. E quindi l'effetto criminogeno del carcere si moltiplica. Senta, volevo chiedere prego una cosa, perché lei ha parlato all'inizio del perché noi vogliamo il male di chi ci fa del male. Sì. In realtà la risposta la si potrebbe trovare nel fatto che noi quando riceviamo del male comunque abbiamo paura, ci sentiamo condizionati nei nostri comportamenti e pensiamo che facendo paura che ci salviamo facendo paura, certo. Poi anche un'altra cosa che cerchiamo di fare in realtà con il carcere è di creare delle discariche sociali nel quale andare a gettare i cosiddetti rifiuti, con tutto il rispetto per... E poi la paura è uno strumento di governo. E lei ha richiamato anche prima la religione come punto iniziale del discorso, perché la religione fino al secolo scorso rappresentava il collante culturale della società attorno alla quale si riusciva a governare le dinamiche sociali. E diciamo quindi che il sistema di controllo sociale passa attraverso la paura. La motivazione dei comportamenti passa attraverso la paura. Lei poi prima ha fatto accenno a, diciamo così, a delle forme premiali per a delle forme premiali, adesso non mi ricordo bene in che contesto, perché poi ci sono stati degli interventi, però certamente l'intervento premiale cioè una forma premiale di gestione delle dinamiche sociali potrebbe essere una forma di governo delle relazioni sociali completamente. Ecco allora che io le faccio questa domanda: se io devo creare delle motivazioni per creare dei comportamenti, su sta cosa mi viene in mente per esempio un'idea che ha avuto il sindaco di Bari tempo fa, ma non questo, praticamente i vigili premiavano chi andava col casco e non sanzionavano, ma io sulla scorta di quali valori lo vado a fare? È la scelta dei valori che vado a diciamo così a mettere in campo per creare questo sistema premiale, dove li vado a prendere? Perché lei giustamente ha detto, io a mio figlio se gli dico che la televisione è un premio faccio male, però se me lo chiede a me, io sono condivido con lei, io potrei dire no, per me la televisione è una bella cosa, certo. Allora se io devo creare un istituto premiante in una società che in questo momento, in questo secolo, ha perso il sistema di valori, perché noi siamo passati da un istituto religioso, dalla religione come, diciamo così, faro della cultura, a quello che oggi non c'è. Il problema è lì. Sì, ma io non credo, mi scusi, io non credo che l'educazione, perché anche quella delle persone che hanno commesso un reato è educazione, poi ci mettiamo davanti lì. Rieducazione è una parola che richiama delle cose che sarebbe meglio che non sarebbero mai successe, usiamo un'altra parola, chiamiamola riabilitazione, quello che è. Io non credo che passi attraverso i premi, è lo stesso. Secondo me, e questa forse è ancora più scandalizzante, il premio e la punizione vanno di pari passo. E il problema è quello della responsabilizzazione delle persone. Cioè, lo scopo deve essere quello di fare in modo che le persone si comportano correttamente nei confronti degli altri perché sono convinti che è bene, non perché sono convinti che ci guadagnano. È lì il punto. E poi è ancora più difficile quello, no? E allora delle volte bisogna accontentarsi e dire bravo a chi mette il casco, no? Cioè dargli un premio perché mette il casco, dargli un premio perché è promosso a scuola, dargli un premio perché non litiga con la sorella e via dicendo. Ma non è questo, non si diventa grandi attraverso premi e punizioni, si dipende se si danno premi, chi riceve il premio o riceve la punizione, dipende da chi lo governa, da chi gli dà il premio o la punizione, e non diventerà mai grande perché sarà sempre dipendente. la strada è una strada diversa. Quando io parlavo del contatto tra la vittima e il colpevole, di questa giustizia riparativa, ma per il colpevole è forse ancora più faticosa in certi casi che non starsene in galera un anno, due anni, tre anni, dieci anni. Scusate, un attimo, vado dietro le quinte, ma è la settima telefonata che... E quindi a un certo punto, un secondo soltanto. È diventare responsabili. È diventare responsabili. Aiutare le persone a crescere. Aiutare le persone a rendersi conto delle conseguenze che hanno le loro azioni. Perché è utile, utilissimo il mettere in contatto? Perché da una parte la vittima si può, per certi versi, per quel che è possibile, riparare, ma quell'altro vede le conseguenze di quello che ha fatto. E uno va a parlare a Pina dal tabaccaio con il taglierino e glielo punta alla gola, dammi i soldi qua e là su e giù, se ne va, basta, guarda come sono stato bravo che sono riuscito. Mettetelo insieme al tabaccaio dopo e vediamo se non è che arrivi a capire un pochino qual è stato lo stato d'animo del tabaccaio. Mettetelo di fronte, è un pochino diverso. La prego. Essere responsabile, sì, vuol dire rispondere. Certo. La responsabilità però può avere il profilo individuale, sì, per cui io rispondo e condivido con lei, potrei rispondere subendo, sì, la pena o, sì, con il premio, e comunque lei ha avuto qui la risposta, sì, su questo me l'ha data. Ma la responsabilità che io ho nei confronti della società, come la riesco a farla mia? Cioè, basta senso... venire qui a sentirla, cioè voglio, sì, dire, io come faccio ad assumere la responsabilità di una cosa, sì, se non assumo una motivazione interna? Bisogna, c'ha ragione, bisogna partire ancora da più lontano. Io mi sono dimesso dalla magistratura, sono 4 anni e mezzo ormai. Mi sono dimesso dalla magistratura perché secondo me è questo che bisogna fare. Potevo continuare a fare il magistrato per altri 14 anni. Dicevano anche i suoi colleghi. Come? Diceva anche Borsellino e Falcone, la famosa conferenza. È questo che è assolutamente utile. Potevo andare avanti altri 14 anni, fino a 75 anni, a fare il magistrato. Ne avevo 60, quasi 61, mi sono dimesso e ho smesso. Ho smesso di fare il magistrato e, smesso di fare il magistrato, mi sono messo tra le altre cose, ne faccio 400 di incontri come questi, 300 con i ragazzi e un centinaio con gli adulti, sono tanti, faccio anche delle altre cose, tra quelle altre cose che faccio mi sono messo a scrivere, ho scritto qualche cosa prima, però adesso mi scrivo veramente, faccio una vitaccia. Eh sì, faccio proprio una vitaccia, per cui tra un po' vi saluto perché sennò contraddico le cose che ho detto all'inizio. Il primo libro che ho scritto di questo filone si chiama Sulle regole. È il libro che spiega, il mio modo di pensare a proposito della responsabilità delle persone. Poi ne ho scritti che riguardano i bambini, i ragazzi, uno si chiama Sei stato tu, la risposta alle domande dei bambini delle elementari sulla Costituzione con una insegnante, con una maestra, a cui i bambini facevano queste domande e me le mandavano. E poi ne ho scritto un altro che è Le regole, la versione per bambini di Sulle regole, quella che invece è rivolta ai grandi. E poi ce ne sono due che sono il seguito sostanzialmente. Uno è democrazia, quello che aveva la signora. E l'altro è questo, il perdono responsabile. Se lei vuole fare un quadro complessivo, bisognerebbe, di quello che penso io su questi argomenti, dovrebbe leggersi prima Sulle regole, poi democrazia e infine il perdono responsabile. Quello che di cui stiamo parlando adesso è un settore, diciamo, specialistico, di una questione molto più grande, che parte dalla quella porta è una porta non è che sia, no, lei già stava nel film dell'orrore, che parte in primo luogo, il punto di partenza è come si intendono gli altri. il punto di partenza è lì, poi il bene e il male, sì, alla fine sono intercambiabili quasi, no? Perché se uno pensa che gli altri siano strumenti, e ci sono persone che lo pensano veramente. L'altra cosa da leggere, anche su questo argomento, è il Grande Inquisitore, quel capitolo di Dostoevskij. E se uno pensa che gli esseri umani siano degli strumenti, che siano vili, che siano... Allora il bene cos'è? Il bene è contenerli. E per contenerli, cioè vuol dire governarli, e si fa quello che è necessario per fare in modo che obbediscano. No? Questa è l'idea pessimistica dell'umanità. Sono da buttare. Ma potrebbe anche esserci un'idea diversa, che invece l'essere umano è dignità. Ma se l'essere umano è dignità, la conseguenza è che sia una sua prerogativa la libertà. E allora l'organizzazione delle relazioni si basa sul riconoscimento delle libertà reciproche. E lì non è che noi possiamo trovare una sintesi necessariamente. Bisogna ragionarci, perché uno pensa una cosa e uno pensa un'altra. E bisogna, si può anche riuscire a convivere pur pensando delle cose diverse. Prego. Gli esseri umani non sono vivi, non sono... Beh, qualche volta sì, qualche volta no, cioè, però potenzialmente. Però partono da uno stato di natura, diciamo, quello descritto da Hobbes, diciamo, da uno stato di natura primordiale, no? E con questa natura animale, con questa natura primordiale, dalla quale qualcuno si è evoluto in una maniera, qualcuno in un'altra, ma a questa natura primordiale noi dobbiamo sempre rispondere e dobbiamo sempre dare conto. Non siamo evoluti e fatti di puro spirito. No, non siamo fatti di puro spirito, sicuramente ci si vede. Con degli interessi concreti, c'è un po' di funzione primordiale anche. E non tutti gli esseri si sono evoluti nella stessa direzione. Ma attenzione. Per quello dobbiamo fare i conti con quella natura lì. No, io non sono d'accordo con lei. Io non sono d'accordo con lei sul fatto che le persone siano caratterizzate quasi da genomi che le rendono diverse le une dagli altri. La mia idea, il mio modo di pensare, vede, io, lei cosa fa nella vita? Io lavoro alla polizia giudiziaria. Alla polizia giudiziaria. Lei, lavorando alla polizia giudiziaria, fa un lavoro molto simile a quello che avevo fatto, a quello che facevo io. Bene. Io abbiamo delle idee completamente diverse. Io credo che le persone, qualsiasi persona, possa fare un percorso che lo, tra virgolette, redime. Lei invece non ci crede. Io credo che siamo tutti diversi, non tutti. Lo so che siamo diversi, siamo diversi. Siamo diversi, per cui ci vuole migliore o peggiore. Lo so che siamo diversi, ma la nostra diversità non ci porta a essere necessariamente uno un assassino e un altro un angelo. Noi siamo tutti un po' buoni, un po' cattivi. E succede magari come la signora che ha ficcato il coltello nella pancia del marito, che era una bravissima persona eppure ha ammazzato qualcuno. E l'ha ammazzato volontariamente. Ma se noi non superiamo questa visione, che è una visione manichea, il male sta da una parte e il bene sta dall'altra. Lei dice che uno... ci sono quelli buoni e ci sono quelli cattivi. Non ci sono i buoni, ci sono delle persone. No, aspetti, lasci finire. Adesso io scappo, perché è arrivato il punto in cui è il caso che vi scagnate per conto vostro. Ma io non ho mai diviso il mondo in due, per la morte di Dio. No, ma le persone sì, lei dice. No, quelli lì, ci sono le persone. C'è uno spettro, sì, evolutivo diverso per alcune persone. È uguale, eh. Lei lo dice in un modo diverso, ma mi sembra che sia uguale. No, cioè non c'è il bianco e il nero, sono tante gradazioni di grigio. Appunto, siccome ci sono tante gradazioni di grigio, di verde, di rosso, eccetera, dopodiché si tratta di fare in modo che nelle persone poi magari qualcuno non si riesce perché ha dietro una storia talmente tragica che no, ma qualcuno, lo Stato, la legge, l'organizzazione dovrà comunque dare conto anche a quelle persone che non sono riuscite e dovrà occuparsi anche di quelle persone. Ma certo che deve, così come deve occuparsi di quelli incapaci di intendere e di volere, però incapaci, ma per motivazioni. Certo, ma dipende poi lo Stato come se ne occupa, perché se se ne occupa mettendone in 10 in una cella di 3x4, se no tutto male. Siamo d'accordo, abbiamo pensato una cosa simile. Sì, sì, sì. Però voglio dire, nel senso, ci deve essere una forma sanzionatoria anche per persone che sono riuscite a percorrere quella via che lei... Ma perché dice sanzionato? Cioè io non riesco a capirlo. Io capisco che lei per il mestiere che fa, così come quando io facevo il giudice, quando sono entrato a fare il magistrato, e pensavo che la prigione fosse estremamente utile, no? Poi sono passati 33 anni, sono un pognuco anche, evidentemente. Ma dopo 33 anni io sono sicuro, prove alla mano. Che... Aspetti un secondo, perché io non ho interrotta del tutto, no? Sono sicuro che la prigione non è utile, ma sono sicuro, vi dicevo, prove alla mano, provate a leggere questo libretto, e provate a leggere i pacchi di cose che hanno scritto all'estero, in Italia, ma c'è c'è un libro che si chiama La giustizia senza spada, l'ha scritto Grazia Mannozzi, che insegna all'Università dell'Insubria. Oltre al fatto che è un libro scritto molto bene, è documentatistico, è un documentatissimo, eccetera, ha una bibliografia su questo tema che è alta almeno così. La giustizia senza spada. Credo che sia della CEDAM, se mi ricordo bene. Aspetti un secondo, no? Allora, se noi constatiamo, da dove viene questa esigenza di punire uno che peraltro, se è fatto così, non è neanche responsabile, cioè se ha seguito un percorso che l'ha portato lì non è neanche responsabile del percorso che ha fatto, no? Da che cosa viene? Cioè io lo capisco che sia un'esigenza forte per una persona che, bene o male, il lavoro che fa è preordinato a una soluzione che è duplice, no? È quella di salvare i diritti delle persone, ma anche di salvarle attraverso il portare in prigione le persone, le altre persone che ci attendono. Sì, prego. Io conosco poi lei e poi vado. Purtroppo conosco il bastone, purtroppo lo conosco bene. Conosce? Il bastone, carcere. Sì. Ogni volta che porto qualcuno le dico che mi piange il cuore perché vederlo lasciarlo in quel posto, certo, è orribile, sì. Una roba indegna veramente. Io da solo non posso pensare, mai più una persona può finire in un posto del genere. Ma io sono il primo a pensare a una persona, sì. Così qualcuno pensa. Ma allora mi spiego ancora meno del perché lei ritiene necessaria la sanzione. Togliamo la parola sanzione, il comportamento dell'ente sovrano che dovrà occuparsi di persone che per... No, questo sono d'accordissimo, certo, ma mi sembrava di averlo anche detto. No? Sì, sono d'accordo. Lei e poi... Io volevo ringraziarla. Ma la prego. Nel senso che, secondo me, ha portato il discorso della cultura della pace, cioè che anche in giustizia, attraverso l'acculturamento sociale, si possa arrivare ad una vera riforma degli istituti giuridici di recupero. Cioè, però quello che apprezzo, proprio questa cultura della pace, perché se andiamo a sentire cosa ha detto Paolo VI, aveva detto che mai più la guerra in un certo passaggio. Questo l'ha detto il cardinale Bertone recentemente a Reggio Calabria in relazione a questo senso o all'applicazione della perdonanza. E se andiamo a vedere addirittura Pio XII, quindi discutiamolo pure, sì, però sì. Ha detto che la guerra, cioè la pace non fa mai danni, comunque la pace non crea disastro, la guerra crea sempre problemi, cioè laddove c'è un sistema punitivo, comunque è una forma comunque di guerra. Io quello che però ripeto, apprezzo a nome mio questa cultura della pace che lei ha dato, e anche questo fatto che poteva vivere grassamente per 15 anni, fare un lavoro vero, grassamente, cioè, abbia pazienza, cioè le voglio dire, apprezzo questo suo fatto di aver fatto una scelta sul campo culturale piuttosto che sul campo della giustizia, dove lei è stato un giudice affermato, capace e riconosciuto. Quindi io voglio dire, questo è un fatto che le fa onore, perché giustamente lei ha fatto una scelta e porta questa comunicazione, cioè quell'accrescimento che bisogna avere a livello sociale per capire di arrivare che certe poi leggi, certe scelte saranno conseguenziali. Cioè il fatto, quando lei citava i figlioli, i ragazzi, quando uno arriva tardi io gli chiedo perché sei arrivato tardi, cioè la prima domanda è di come mai, cioè, ma non in maniera inquisitoria, cioè cerchiamo di capirci, hai avuto un problema, hai avuto un guasto al treno. Mia figlia una volta ha fatto un ritardo alla stazione di Viareggio, per la notte è successo un incendio, no? Non è una barzelletta, certo. Io avevo l'appuntamento proprio su quel posto, e credo che certe cose non siano casuali nella vita. Cioè voglio dire, fatto di avere un certo modo di pensare ci porta comunque a capire in maniera diversa, e questo credo che io ho capito stasera da lei, e me ne fa grande piacere. La ringrazio molto, mi sembra che sia proprio un discorso conclusivo.